by the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Buongiorno e ben ritrovati. Questo è l'Early Bird Special e questa è la prima colazione che serviamo tutti i giorni qui dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird, quello che tutti conoscono per la tazza di caffè nero bollente perennemente tra le mani, per la sua grande musica e naturalmente per le sue baggianate sulla vita, la morte e i miracoli delle vostre rock and roll star preferite. Abbiamo iniziato alla grande con John Jett, I Love Rock and Roll. E voi? E voi amate il rock and roll? Sento già delle voci tipo: ci puoi scommettere la tua collezione dei dischi degli Iron Maiden. Buon martedì a tutti, questo è Harry Nilsson, Everybody's Talking. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, sailing off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Vi state chiedendo qual è la ricetta dell'Early Bird Special? Ma è semplicissima, è veramente la migliore che potete trovare a quest'ora del mattino su tutto l'etere. La ricetta è grande musica e qualche chiacchierina fra di noi che amiamo il rock and roll. Ho una bella storia su Alice Cooper e Elvis Presley, ma ve la racconterò dopo una bella canzone di ELO, Electric Light Orchestra. Scusate, orchestra. You, Evil Woman. You made a fool of me, but the broken dreams have got to Vi avevo promesso una bella storia su Alice Cooper. Alice Cooper, uno matto dalle gare, ma non il più matto di tutti. Lasciatemi raccontare di quella volta, era il 1974 giù di lì, quando Alice Cooper incontrò a Las Vegas il re del rock and roll in persona, Elvis Presley. Alice Cooper era con Liza Minnelli, Chubby Checker e Linda Lovelace, l'attrice che interpretò Gola Profonda, e tutti erano stati invitati ad entrare nella suite dell'Hilton. Si disse che tre di loro sarebbero tornati immediatamente giù dopo l'incontro e uno di loro sarebbe rimasto con Elvis. Alice Cooper aveva dei sospetti di chi sarebbe rimasto. La sorpresa era che Elvis non stava alla suite dell'Hilton, ma molti più piani in su. Beh, incontrare Elvis a quel tempo era un po' come avere udienza dal Papa. Una volta entrati nella stanza di Elvis, tutti capirono che il re era un po' su di giri. Ad un certo punto prese una pistola dalla fondina di una delle tante guardie del corpo che lo circondavano. Elvis chiese ad Alice Cooper, che vi ricordo non è il più lampante esempio di sobrietà negli anni 70, dicevamo, Elvis chiese ad Alice Cooper di prendere l'arma, una 38 mm regolarmente carica, e di puntargliela contro. Elvis voleva dimostrare come, con una mossa di karate, poteva disarmare chiunque lo minacciasse. Alice Cooper parecchi anni dopo confessò che una vocina nella sua testa bacata gli diceva «Sparagli, sparagli!» Quella volta Elvis rischiò veramente di brutto. E se Alice avesse realmente sparato? Beh, avremmo avuto un re assassinato, un condannato a morte in più e una manciata di belle canzoni in meno. Magari proprio questa. «You and me, Mr. Alice Cooper». Special, martedì 9 ottobre, come tutti i giorni, è qui a servirvi la prima colazione, fatta di grande musica e di qualche chiacchiera con il vecchio Chucky Boy. Abbiamo con noi Def Leppard questa mattina, Armageddon It. Hey. Cosa prendete voi per colazione? Io preferisco il caffè nero bollente e ne bevo un quantitativo veramente esorbitante. Naturalmente ho bisogno di assistenza per tutto questo flusso di caffeina e il merito va tutto alla mia dolce Cherie, che anche questa mattina non mi fa mancare la mia tazza. Thank you very much, Cherie. Feel Like Number. Questa è la musica che potete ascoltare tutti i giorni qui da Rock FM, ma in particolare questo è l'Early Bird Special, che è la colazione che serviamo qui dalle frequenze di Rock FM. Early Bird Special, esattamente come il menù speciale che nei diner americani servono a quelli che per primi sbattono gli occhi e strabuzzano le alucce. Voi siete i miei passerottini, voi siete le mie passerottine e voi meritate il meglio. Questi sono i Kinks, L-O-L-A, Lola. I met her in the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her name and in a dark brown voice she said Lola, wanted to be that way for my Lola. La la la la la la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's up my Lola. La la la la la. Bear Special si può raggiungere con la moderna tecnologia se chiaramente avete una connessione internet. Potete digitare Bird chiocciola Radio Rock FM e comunicarvi le vostre impressioni, naturalmente, perché Cherie stampa tutto quello che mi scrivete e me lo porge. Qui c'è un passerottino chiamato Alex che mi scrive per tirarmi le orecchie, mi dice: ciao Chuck, mentre guidavo verso l'aeroporto ti ascoltavo ed apprezzavo e mi entusiasmavo per l'escalation dei pezzi che avevi in scaletta. Lazy, More Than Words. Poi hai narrato l'aneddoto dei Pink Floyd al concerto di New York del 74 e hai fatto partire Time. Brividi lungo la schiena, peli ritti sulle braccia. Ma sul più bello l'hai rovinata! Quando stavo ascoltando la rullata di Mick Mason e l'inizio del cantato, me l'hai segata e mi hai appiccicato nemmeno con grande tatto la fine del brano successivo, Breath. Non lo fare più, ci sono rimasto di merda. Oi. Fortuna che conclude la sua lettera con un vi ascolto sempre. Ale, è accaduto l'inaccadibile, l'inaudibile e l'inaudito. Quella mattina una sirenetta che fluttuava per gli studi di Rock FM ha schiacciato un tastino sbagliato. Era convinta che fosse l'interruttore della luce, perché al vecchio Chucky Boy piace trasmettere nella penombra, e invece era quello del forward, quello che fa andare avanti il disco del lettore CD. Sono cose che succedono solo la mattina, e forse è per questo che mi piace la mattina. Eccoli di nuovo con noi, i Pink Floyd. Ale, ci riproviamo con Learning to Fly, e tu non toccare niente, mi raccomando. Fine. try. Gotta keep my eyes from the circling skies. Turn tight and twist and just an earth. Now this is my bridge. Set. Mixtures bridge. Colors forward. Flaps set. Learning to Fly, scelta non a caso, visto che Ale stava guidando verso l'aeroporto. Chissà, magari un pilota, uno steward, un controllore di volo, oppure tranquillamente è uno di quelli che fa la spola con i pulmini. In ogni caso, grazie di ascoltare Rock FM e spero che con questo brano dei Pink Floyd di essermi fatto perdonare. E se non bastasse, abbiamo con noi anche Neil Young, After the Gold Rush. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. On the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was alive. saw the silver spaceships lying in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen ones, all in a dream, all in a dream, the loading had begun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver seed to a new Early Bird Special, anche questo martedì c'è scivolato tra le dita come sabbia. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con i restanti programmi da Rock FM che nell'immantinente proseguiranno con Pane, Burro e Rock and Roll con l'Ariele e Freak Anthony. Chuck Bird vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domani mattina, sempre dalle 6 alle 7, sempre con Early Bird Special. Aloha!